rotti coglioni. Leone, quella bagasse mamma tua, capito? Quella bagasse mamma tua che ti ha messo a mondo. Ma domani crepa, tu. Dimmi. Telefonate, brutto rosso. Vaffanculo. E che età. Fallo, vuoi vedere che ne squilletta le prese di mamma tua? Chi è, avanti. Chi è che mi ha chiamato? Merucca. Roberto. Ui ui ui, c'è la per qualcuno che abita, che abita lì, in zona. In zona B? Lucinante, siccome non lo faceva bene, è per quello che ce l'aveva con lui. Ma le risate, ui ui. Sì, non so, dammelo un ricordo io, ero un ragazzino, ero. Me lo ricordo, ero un ragazzino. Praticante di gurore nei combinati. Finiti l'esercizio, tanto non ne finisci uno. Lo so, prima era pieno. Mia voce non ha capito. Ha vinto chi è? Cosa? Chi è? Avanti. Con chi ce l'aveva Paoletto? Ma stai a tu, c'è qualcuno che vuole parlare, avanti. Ho cambiato dei microfoni, ma è sempre la stessa musica. Senti, ma che a me oggi ben notato, capito? Però ancora no, c'è il Covid. Amico di sotto, ti sento basso, chi sei? Qua sei 9, 9, 5, vieni. Sento, si sento basso. Me ne sta caricando. Scappa. Chi è questo che sentivo basso, l'amico? Certo, non ascolta benito. E qua 9.5. Sto usando un ordinino di macchina. Ha benito, No, io lo sento un bel basso, lo sento. Lo sentono Santiago 3, lo sento. Però non avevo capito chi era. E boh, forse è chiuso per me quella zona. Scappa, bene. Arrivi basso, basso arrivi. Purtroppo c'è un antennino, io sicuramente sono coperto per la tua zona. Vabbè, cioè, adesso sto riuscendo a tirarti un po' fuori perché ha abbassato un po' il QRM. Boh, sono sempre stato negativo per te. Allora se metti antenna non c'è problema. Io il QRM non agio mai a tu. Ma zero, difficilmente che salga anche a uno. Ma non è che ne abbia neanche io, però è lui troppo basso. Quindi magari lui è aperto per te, ma non per me. E qua magari per quella zona io ho qualche cosa negativo. Chi è la gara? Ti sto mandando il video a tu. Già. Aspetta che non stava scaricando. Aspetta che lo guardo. 9.50 arriva a casa tua quasi. Viene. E avanti. E beh, tu, visto il video? Sì, sì. Sì, ho visto. Ma magari, no, ma manco io ne ho tanto. C'è un ragazzo, vado, beh. Guarda. Con questo conto digitale sono. Non è che. Però lui arriva talmente basso da me che no, è proprio un handicap. C'è qualcuno che chiama Claudio. Ma ancora non ho sentito in radio, Luca la sta fonte, Luca Flipper. No, Claudio ancora non l'ho sentito. Forse sta facendo il riposino ancora. Ah, ok, Roberto D'Alghero. Arrivo anche lì. Meno male. Va bene, appena entra glielo dico. Ciao Roberto, avanti a tu. Papà, salutoni Roberto, mi senti? E capo, un po' basso ti sento qua, un po' basso. Oh cazzo, c'ho quella zona negativa, no? In FM parlavo con Alghero. Ci siamo sentiti l'altro giorno in FM, te lo ricordi? Pa. Benito! Ancora non sei sciutato, ricca e pizza. Ah, il silicone, però ho capito. Vabbè, l'importante è che in stato anche se le piove non già non entra. Però mi sa ho variato, senso. E silicone acrilico non hai? Hai al limite mettere un po' di vulcanizzante. Io vediamo. No, non ne ho più usato. Infatti, dice Guido, quando cade a cavallo bisogna tornare in sella. Cade prego. Un attimo, telefono. Adesso sotto casa, ho a fianco a casa. Gigi! Va bene. Ma che allora, ma cosa c'è stata antenna vicino a casa? Caparroggio, va. Caparroggio, ho visto qualcosa a fondo scala, detto chi è qua. Ci siamo attaccati, siamo 30 metri l'uno dall'altro. Cicconio! Ehi, c'è Gigi Vulcano! Il bombolo, Cianto, chi è che c'è nella ruota? Chi tutti c'è? Ciao Gigi, se mi ascolti, Luca. Ciao Luca, Flipper, sì. Ehi, a Parroggio, dai. Qua sempre a ottava, dai, a fianco a Benito. Ah, battimento Benito, adesso fai. Adesso a Benito gli metto la coperta io. Gliela metti, sì, c'è un bel forte. Qua c'è abbastanza forte, Gigi. Ma aspetta, con 3 watt sono di portante bianca, attenzione, 3 watt sono. Qua hanno 20 modulati. E qua da parte mia. Ciao Gigi, c'è quasi 9,20. È positivo, no, è un coso, è un, come si dice, dai, un vaffanculo, non mi viene. Già lo so cos'è, ce l'ho davanti, però non mi viene il nome adesso. Non mi viene, dai, tipo un flusso, dai. Va bene, va bene. No, un'altra cosa. Un'altra cosa che è diverso, dai. Questo nasce già col doppio modulatore, capito? E YTK, dai. Parroggio, non so chiusi i watt, ce li ho a zero, capito? Ce li ho tutti a zero, con 3 watt, capito? Però al massimo fa 9 watt, 10 watt portante bianca, e al minimo chiusi 3 watt portante bianca. Col Michigan è chiuso, perché sennò la radio... guarda, se vado a aprire il Michigan, vedi che è troppo forte come il radio. No, il Michigan ce l'ho chiuso, perché fa molta radio, mi dicono che è troppo forte di radio. I watt, allora, i watt sono questi. Allora, ecco, i watt li ho portati tutto al massimo, però il Michigan è a mezzogiorno, Positivo, aspetta. Allora, ore 15 Michigan, però sono 10 watt di portante bianca, dai, al massimo. Però va bene anche chiusi, dai, così sono... Aspetta com'era, così sono 3 watt, ecco, così sono 3 watt chiusi. Perché ho chiuso il Michigan, ho abbassato, stavo aprendo il Michigan, ho aperto il Michigan e tira più radio, forse dà più spinta di picchi, non lo so. Allora, se ti faccio vedere la portatura bianca, vedi che non ne hai di fatti, non ti dà nessuna cosa, mi guarda, aspetta. Portatura bianca. Ma te, Benito, sei vicino a me, cavolo, anche se c'ho 5... È di lontananza, non a vederlo, vicino a te non ho... Anche tu mi sembra che sei al massimo a fondo scala qua. È positivo, io stavo dicendo la differenza che c'era lì da... Qua non te ne accorgi, no, cavolo, vicino non te ne accorgi, lontananza. È positivo, un baracchino che ha già il doppio modulatore dalla casa. Questo c'ha 2 finali, come il flusso. E più c'ha anche il doppio modulatore che gliel'ha messo, chi gliel'ha messo, dai. E un altro modulatore ancora dentro, un altro doppio modulatore è diventato triplo adesso. Va bene che bene. Vabbè, bombo non c'è più. Sono qua, avanti. Caffa, tu, ti piace questo baracchino? Baracchino stiamo parlando, Va bene, caspitina. Positivo, quello, questo è, c'è anche, come si chiama, C'è anche l'eco colto, così, Aspetta, dove? Sai che sta la cosa? Ui. Lu, ave sei? Aspetta. Yeah. Sì, Luigi Vulcano. Tutti dormiti, sono tu, chiari non te ne trovariato. Sei Luca, sono al telefono. La tua soddisfazione è il nostro miglior premio. saluta, ok? Certo. Sì, yeah, capito. Ok, ho capito. Te lo ricordi il suo film, ma tu? A te la metti? La tua soddisfazione è il nostro miglior premio. A voi che me lo ricordo. Con i rampanzi. Ma poi ci ricordo. Ha fatto un film con Pierino. Questo era il film con Lino Banff. Vedi, vedi, niente, Raffaella, Raffaella sta preparando. Sta preparando a rompere il yo-yo. Ma quando è che ne ha finito questa cosa? Un po' più no. Dopo su, però mi sono fatto davvero freddo, Fende davvero freddo, sì. Speriamo che ne ha finito, andate più gana, no? Sei contento così prendi più gas? Contento, però ho fatto un mese, però ho fatto un paio di mesi così a regando le bombole. A impazzata. Guardate, impazza la gana. Più ne consegno per ricco di 20, no? Cosa? Più di 20. Più ne consegno più ricco di 20. E non mi entra nulla in muciacara. Ah sì, a te è una o dieci. Lo stipendio si aprisce. Allora, via. Specialmente in bala e dice di mamma perdono. Ehi, tuo padre va in pensione tra poco, così. Sì, il babbo non fa fatti più. Quanto gli manca ormai la pensione? Sì, poco, poco, ma no. Cioè, non sta tanto bene in salute. Già vedo, il suo travaglio ti consuma. Vabbè. Io la di andare a di nadare, ha detto pure Giuseppe Bala, e mi dice una voce, cioè dice che ci hanno fatto un culo tutti e due fratelli, cazzo, sono arrivati a 9 di sera, non abbiamo nemmeno un canale idrodiato. Ci credo, e purtroppo, poi non usate carrellini, non usate niente, tutta coto. Sì, qualcosa già lo stiamo utilizzando, però è un casino nelle scale. Va pure veloce, deve va, non è così. Devi fare anche veloce, consegnare, farà. Ecco, la candasera non è gana, cioè, di mamma perdona, mi dice. Soprattutto per come lavorano certi rivenditori. E poi loro fanno li scaricano, io li sento da qua dietro le piscine. Questo! Ehi! Molte volte! Allora un mese di Natale cosa fai? Nato da su Angelo Gherchi, chi che fa le bombole? Nata, gli lascia direttamente il camion, poi viene a prendercelo l'indomani. E io li sento da qua. Più giù delle piscine, si mette lì e scaricano dal camion al coso. Ma perché, scusa, il camion non arriva vicino a loro, non dico di entrare a Bofuzera via, però qui la parata non accoccia l'ufficio di collocamento. Quello piccolino, l'altro giorno gli ha lasciato quello piccolo, gli ha lasciato lì a sua disposizione, non hai compreso. Gli ha dovuto lasciare lì perché se no aveva bombole. Cioè, lì c'hanno i disoccupati tra vendita e negozio. Tra loro che ne hanno buttato, te ne buttato 160 bombole, io buone buttate. Questo è il periodo poi che se ne vendono molte di più. Vabbè. Ogni auguro che si è fatto. Sì, ma pure avendo già le mucce in diranti, non vedere ora che finiamo in ferro. Perché chi era quella che c'era in rivendita? La moglie? Capito. Quella che c'era in rivendita chi è? La moglie o la sorella? Chi è? Bu? Sorella è coso e... Bah. Non so, mi viene il nome. Ci sono messeri che ti tronca la china col tempo. E purtroppo non ci sono altre soluzioni. Devi metterti un busto. Un gaghissa. Il problema è che ne arrivi pochi. Ok, ci siamo. Ma quando comincia già le gambe di bomboli? Quando comincia già a portare come eravamo noi? 50 bomboli alla ricca se consegniamo a me. E pure di più. Ti voglio vedere cosa fai. Adesso un po' di meno. Ma prima 50 bomboli al giorno portavamo. Adesso un bel, porca miseria. Ma ora ci ha pensato il palazzino per l'ascensore, oh yeah! Lo devi fare. Lo so. Lo so. È un casino perché pesano. Non lavoraccio. Fatto buon purtroppo. Noi a piedi ne abbiamo tante, anche che gli molti si rifiutano di portarle. Perché se no bisogna sapere, io so fare il baga da. Dai 5-10 euro in più, lo so, lasciargliela giù, se si alza niente. Vabbè, cosa fai? Se sono persone anziane, o sono persone che non vuole abbattere, cosa fai? Non gliela porti su? Sì, perché la maggior parte non vuole i gas di città, nonostante l'abbiamo predisposto, e non lo vuole nessuno però. Una bucaria lui, ci stanno tutti lamentando. Vero, non lo so, io quando abitavo in continente lì non esiste la bombola, capito? Lì devi per forza usare la caldaia, gas di città, eccetera. Così che mi pagavo, sì, il gas era caro, No, vabbè, però il problema è che quello di continente era buono perché rendeva bene. Qua cazzo buoni la cosa, metti la pentola dell'acqua, cazzo non butti mai. Cioè, non ce la fa bollire, è un bel problema. E chissà come ti ha fatto, beh. No, che su chi va più io, a vedere se buttia leva. Perché poi c'erano i riscaldamenti, capito, radiatori, tutto tramite la caldaia, così che... Sì, no. Però ci credo, non è che... Quella è un'altra cosa. Il problema è che quell'aria profanata che usano qua non è... Se vuoi sapere dove stanno guai? Boh, infatti. Aria profanata, Simone. Se fosse stato, guarda, se fosse stato GPL in bombole profano, allora sì che era ciambata la musica. Se fosse stato GPL profano. Ma è aria profanata. È tipo fatto tipo una sorta di metano, perché cambiano anche gli ugelli. Cambiano. Qua non si va nulla. C'era se c'è giri del metano, però non rende. Noi la bombola quando eravamo in continente la usavamo solo per scaldare la guaina e buchi, per fare terrazzi, quella roba lì. Cosa usi a casa? No, quando eravamo in continente. Ah, sì. Chi è avanti? Tu, chi è? Gianni del mio room, avanti. Sì, ciao Gianni, buonasera. Ciao a tu, vabbè, tutto ok? Tutto ok, tu? Sì, grazie a Dio, sì. Sì, già, a me dai ti intendo, come mai? Come a me dai? Perché stavo mollando il tasto troppo in fretta, forse. La faccella è con bai forte, c'hai. Guarda, adesso, cola. Adesso va bene. Kappa. Andare così a tu. Già, tutto a posto? Sì, grazie a Dio, sì. Tutto a posto, tutto in regola. Ciao, vedi. Dove sei arrivato a disegnare? C'è per venire attaccato, il suo Gianni, Chi c'è in ruota, che non ho capito, comunque siamo tutti con gli altri. Siamo noi due. Ma ho sentito un'altra voce, chi era? Luca Flipper. Ciao Luca, ciao. Ciao, ciao. Buonasera, la festa l'ha festeggiata, vai. Ah, adesso tutti in giro ancora, dai rotti. Ah, ciao, sono tutti drommiti, a chiuso la rinotti, erano tutti in giro a consegnare cassetti. Così è. E a te portate tu la calza, per fare. No, niente, niente calza. No? No, niente, niente. Ehi, vabbè, vuol dire che hai fatto la cattiva, carbone ti ha portato. Non ho neanche presa la verità, non ne ho visto. Ehi, tanto mi passate un po' di cioccolato, di bagno. Tanto la stessa cosa, dopo ci vanno a pagare la calza. Ciao, ma... Ui... Ehi, cosa... No, non ne ho preso, la verità non ne ho comprato. Ti ha pagato. Ehi, va, tanto, la vai. C'è un anno che devi fare un cassetto. Tu e tu, la cassetta, vedrai. Cassetta di piani belle, meglio di te, Italia. Vamos. Meglio di te, di me, messi insieme. Certo, non hanno regalato una cassetta a piani belle. A chi che lavora? Sto fa bene, tanto. Ma non è che avete il connettore a seno? A sì? Sì, c'è da attaccare l'MBP5. Dai, l'MBP4 devo attaccare. Non lo so, ma non penso. Non penso che ne ho. Sì, vabbè, me lo compareggio domani, da Fuzzaro. Perché a sei a tu? Perché il baracchino è a sei. Che sarola. Adesso guardo. Vabbè. No, aspettiamo, piano piano, è la ventiglia. E vuole fatto anche le connessioni e vogliono fatte. E già, ci sei. E io? Papà, mi hanno dato un MBP4, mi hanno regalato. Adesso me l'ho piatto. Papà, dove lo metti? Metto in quel baracchino che mi hanno regalato, quello nuovo. Dovrebbe andare bene. Sì, va bene, intanto non vanno collegati tutti i fili. Se c'è l'up-down, i fili dell'up-down vanno collegati. Ecco. Colleghiamo, e cosa devo fare? Vediamo a vedere si pompa, che con il suo microfono non è soddisfacente. Sì, già va. Già, non so cosa mangia Sarotti. Io mi prenderò, non so se prendo la fai. Mamma mia, già. Io guarda, no, è proprio un handicap, è proprio un handicap, fai ne manco a vederne, è proprio, cazzo, vado e, cazzo, mi fa andare di corpo troppo. E quello è l'effetto che fa tutti, ci sono così, prima di scorrerti a tosse, vero Luca, si è ritirato, fa quell'effetto fatto, ma è buono. Se sei a casa te, la di là, di mangiare la farina, buiare. No, il problema me lo fate a manzanire, me lo fate. Ah. Dopo che fa effetto. Cappa. No, va, lascia perdere, no. Non fa proprio. Aspetta, sto cercando quel connettore a Antonio, che dovrei averlo, dai. Poi te la posso fare anch'io le connessioni a tu. Va bene. Aspetta che ti mando la foto, guarda. Questo connettore. E a tu delle pizze tartare non ti piace? Già mi piace, Nidia. C'è cocco, da rosello. Ma forse oggi è chiuso, eh. Oggi la per fare, Non lo so. Io le ordino via internet da cocco. Le ho preso anche l'altro giorno, vanno bene. Sono buone da cocco. Ah, già sono buone. Lo sai dove mi piacciono anche a me. Oltre che cocco. Lì a latte dolce. C'è Corso e poi c'è la ruota che le fa, sono squisite, sono le pizze al taglio. Ok, è che non sei certo che sei di 8-8, ma te la mando la foto. Ne ha già mangiato da 8-8 io. E dov'è questo 8-8? questo non rimane. Ah, la Tidozzi, in chibi. No, però quelle di cose sono più buone, la verità. Mi piacciono di più. Quali, Antu? Ho tabotto, le ho mangiate. Cioè dove? Lì a Tedolce, dove c'era il negozio, cioè alimentare una volta, vicino c'era il barbiere una volta, te lo ricordi? Ah, ho capito. Ho capito dove. Ma pompa in diesel già. No. No, appena. Cazzo, sei 9,60 già. Via e tuia. No, adesso andavo. Ma sai che l'alimentatore c'ha un tasto dietro e toccando di quel tasto non lo fa più quel tutto. Lui. Adesso però per farti le connessioni mi devi dare anche il baracchino naturalmente. Baracchino e microfono. Cappa. Devo fare da me. Ma ti devo dare anche tutto il capo intero? Se lo devo collegare. Ok, dai. Sto cercando di toglierlo adesso. Ok, dai. Cosa? Te lo lascio e poi me lo consegni quando è. Sto passo subito. Vabbè, me lo devi lasciare, quello sì, magari passo il giorno dopo a ritirarti. Mi viene male il giorno dopo, sicuramente. Non ho capito. Mi viene male a ritirarlo il giorno dopo. Qualche giorno e poi lo ritiro. Quando vuoi, Antu? Cappa. Aspetta, devo smontare dopo. Cosa, la tappetta c'è attaccata al piano, ti do solo il baracchino e il cavo e buco. Sì, sta fanno i voglio. Che riprendi già che io sto smontando. Sì, smonta. Oia. Adesso sentiamo un attimo con l'apparato a bomboletta. Ma come ha modificato questo apparecchio? Che ha modificato? Quello tradizionale. Poi volendo lo posso anche spostare, perché il connettore va bene anche all'altro. No, il microfono ha modificato. Cosa ha modificato? Mi ha detto di no lui. Mi ha detto di no. Se ce lo modifichi esce una roba, esce il microfono. No, non mi piace modificare le cose. Ecco qua. Fatto. Ho mandato foto, mi. Non sta piovendo. Sì, tutti colori nare, tutti colori nare! Mario! Sì, che devo gavare sul gatto di capo. Claudio! Cosa c'è di fare a botti? Cosa vai? Allora io sì. Dai, no, che sono tutti bumpendi, boh. Però che devo buone un 140 io. Baba! Guarda, tu arrivi liscio, come Gianni arriva attaccato alla manetta. Fatti tonto, c'è i problemi. Questi sono i batti della radio. Così tra un attimino ti guardi giù. Via. 9 watt e mezzo adesso. Tu con 10 watt arrivi 9 più 30 come Gianni arriva quando è attaccato. Fatti un conto. Se ti vuoi lamentare. Aspetta, faccio la prova, guarda, adesso riporta a zero. Guardati se cambia, Allora, così è potenza in L. Potenza bassa. Adesso siamo a 5, aspetta di spostare il coso, adesso siamo massima potenza, 60 modulati e 35 portanti. Luca, ma cosa non lo vuoi il microfono originale? No, quello non lo so. Bene. No, più 30, sì. Tanto, ma tu stai usando l'altra radio? Sei basso di segnale rispetto a prima, come mai? Sì, io accendevo 4 watt. Onde vuoi andare? Va bene, no, è giusto perché non c'è mai, non tutti i casi nei miei giochi che voglio io con il radio abbia. Aspetta, stavo fischiando. Abbia problemi, ho capito. Quanto sono di segnale? Più basso, 9,5, non è che sei basso. Oh, mi sono spaventato. Ah, che ando con pochi fat. 9,5. Cazzo. Ero già voi. Non va bene. Con 4 watt, 9,5, non va bene. L'altra radio sei 9 più 10, liscio. Ma perché poco fa mi ha fatto... Non basso io. Quindi, non voglio avere paura, Zorra. Oh, aspetta che approccio questo cazzo che è il migliore. Vabbè, troppo alto mi fa, rientro. Aspetta un po', ecco qua, siamo a previsione. Perché che non hai dichiarato? Che problemi ci avevi a tutto te? Aspetta. Secco qua di segnale, invece non mi arrivo. qua, me ne sarei accorto se era andato male. Luca, come sei andato? Provo a muovere qualcosa, ma qua io sto guardando il segnale e non sta cambiando niente. Ma poi che c'è giù là, perché l'ultimo passaggio è... come ci è arrivato? No, non c'è niente qua. Vabbè, esce il controllo comunque, ma no, sicuramente non è roba mia. Vabbè. Sì, qua, sei uscito un attimino come ti ha descritto Antonio. Ma un secondo qui. Come un innesco, mi ha fatto. Vediamo, allontanandomi dal microfono. Vabbè, io mi hanno attribuito male che c'è radio. Oh yeah, questo è 60, gaffa. Sì, va bene, lo stesso, anche l'altro va bene. Cos'è che ha detto benissimo, no, il mio zio? Credo meglio che scendi. Tutto va per in alto, vega. Ma che gli acuti sono, troppi sia in uno che nell'altro ciambanuda, infatti a volte cambia e nessuno se ne accorge della differenza. A me piace più l'SM20 e 60, gli acuti è quello che ti manca nel 60, ma non lo so, è quello che sono tutto letto, l'ho letto sempre, Nico in AM sono una... Cosa sta succedendo qua? Claudio, se sei a 9.20, cosa sei combinando? Tutta a fischi e segnale 9.20? Non l'ha subito l'ispezione, non si sa mai che sia partito qualcheduno. Chiara, chiara, e a te ti piace questa tanto come radio, o meglio l'altra? No, mi piace molto la verità. Questa? L'altra è un pochettino più schidina. Questa è 60, l'altra è la SM20. È buono, buono, cavolo. Chiave gara, e ogni tanto bisogna usarlo, aspetta e guardiamo come siamo di Mikey Gay, vediamo un po', adesso è così a 5, Oh, va bene, caspita, adesso mi sto preparando tutto, me lo metto dentro la sacchetta, qua, vediamo questo. Non si sa mai, te la porto la batteria nuova anche, eh? L'ho solo aperta ma è nuova nuova, non si sa mai che vada la batteria carica e tu godo. Ma io ce l'ho una da 9. Ma ce l'ho anche io, cosa vuoi fare? Te la porto io? Porca. Ok, tanto l'ho già misurato col tester ed è a posto. E beh, Cla. È tornare. E beh, cosa vuoi fare? Andavi a Frusci e scendevi, sei sceso di 9.20, a 9.20 il segnale. Ah, ma cosa vuoi che ti dica? Che andiamo a andare là per fare, babbo! Ah tu, e beh, pronto qui! Mi sta scendendo, vi devo fare delle connessioni. A giù baracchino con le MP. Sì, a me! Adesso mi sto mettendo in moto, mi sto mettendo il giubbotto e il golfo. Porto il portatile, adesso ti chiamo con la portatile. Ok. Ciucu. Ah, cara, ti stava cercando Roberto Di Alghero. Roberto Di Alghero, io ne conosco due Roberto, però di anche tre. Vedo, ma Roberto Di Alghero. Non so, forse Antonio lo conosce. Forse quello che sta parlando con me, forse è quello lì. Come stava parlando con noi l'altra volta, Radio Mattore? Mi sembra più lui che sembrava, dai. Già ho capito l'occhio, c'è problema. E vabbè, ma io in V1 non ho più niente, quindi non so dove cercarlo. No, ha chiamato un paio di volte e gli ho detto che non era entrato ancora. Ha detto diteli che l'ho cercato, va bene. Va bene, grazie, va bene, cappa. Cappa di Roggio. E lui. est. Oggi non si è sentito Massimiliano. Massimiliano, sempre una coscia a Lecce di Trugno. No, c'è un sintetore, fu incasinato, e così viene il festa, c'è Sciuscico, sempre un bel torrente. No, non c'è problema. Fatta pace a due minuti, già si fa sentire. Tanto voglio provare una cosa, Mattino. Io sono convinto che il commutatore è l'antenna. E infatti si è appigliato un feedback negativo, capito? Che su questo, perché il commutatore è buono, magari loro ce l'avevano così, però come commutatore è buono, magari era difettoso, capito? Che cazzo vuol dire comunque un commutatore è buono, non c'è problema, perché però mi sta creando problemi. Aspetta un attimo, vediamo, cambia radio. Questa è la linea del 430, adesso sto andando con 430, con la linea 140 non mi crea problemi, ed è il terzo scatto. Beh, controllo, aprilo, e vedi un po'. Aspetta, il conto è nuovo. Allora. Beh, se 920 è tutto. Prova a invertire, clà, così sai se è il commutatore o se è la radio. Prova a invertire a vedere. Mettilo nel quarto e prova. Infatti quello che sto facendo, aspetta. E così ce ne togliamo ogni dubbio. Chiara, chiara, Alberto, denudato ti sei. Aspetta, bovorino, bovorino. Sicuramente una cazzata, clà. Magari la linguetta, che non tocca bene. Cambia il microfono, quello esce male, esce tutto gracchiante, cazzo. Questo? Beh, ma di Tartunia era meglio addirittura. Ma lo già meglio, ma lo già meglio, lo già meglio. Metti l'SM20, metti. La linea 3. La linea 3. Aspetta che lo metto come era questo. Se è crostata, avviene. E arrivederci per la crostata. Comunque vabbè, l'estate è più piacevole, d'inverno un po' di meno perché prendi freddo, comunque vabbè, devi fare un sacrificio. Ehi, ehi, andavi per riscaldarti, quando ti cresce la testa ti riscaldi. Ehi vabbè, poi una volta c'è stata l'acqua calda, poi ti metti la capatoio, te vai vicino alla stufa, furia. E via. Non sono tutti che ce la fanno ogni giorno che la doccia, già ti credi? Ho capito. E non sono tutti che ci fanno la doccia. Ah, io la faccio ogni giorno, ogni santo giorno. Sì, ma io ci faccio il bagno, ma adesso non ce la faccio più alzarmi. Se vado alzarmi non vorrei potrebbe avvicinarmi della vasca, allora me la faccio di faccio la doccia. Ah, io ogni giorno già, no, io già. Perché poi, sai, io cammino anche a piedi, capito? Scendo via Grazia Deledda, vado anche al centro, e se posso, mi posto la doccia e arrivo a casa. Basta, io mi faccio la doccia, capito? Anche se sono pulito dal giorno prima, ma bisogna farlo. L'estate ancora di più perché sudi, già è su conto. Non prendi nulla di chi si viene detto. Sulla mattina l'aria compressa. Già, c'è troppo eco, ammazza, cazzo, boh. Cosa? Hai troppo eco, non si capisce niente. Guarda adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ti porti un po' di rumore, di ventola, di cose, boh. Vabbè, la ventola è attaccata, normale che si sente. Chi è la voce di dire? Ciao Claudio, ma come fa, boh? Per il re. Aspetta 5 minuti già, dai, dammi tempo di vestirmi. Sì, no, dai. Adesso la ascolto. Dimmi Antonio, come va a sci comportate? Mi comportate sì, e già sto arrivando bene, dai, non c'è problema. Aspetta un attimo, dimmi Antonio, dove sci? Antonio, dove sci? Ciao Claudio, sono entrato solo a salutarti, ho sentito chiamare, perché io sto cucinando, ho proprio l'acqua sul fuoco. Per oggi credo che mi basti, dai, siamo stati da mezzogiorno e mezza fino alle tre, tre e mezza. E quindi ho tutto o niente, capito? Dopo mi dedico un po' alla TV e chiama, ma stasera per breve c'è partita. Ehi, hanno giocato alle tre e la Juve e l'Napoli giocano alle tre e mezza. Quindi tu sarai già pronto, eh? Frittatona, rutto libero, birra gelata. Non ti dico che non va a fare a manco per la vittima delle balle. No, sei un po'. Ma sei un po' giù, anche per questa situazione che abbiamo, che non si può uscire, bar chiusi. Situazione di merda, guarda che mi stanno per affogare le balle. Non ce la faccio più, né stare in casa, né avere mia figlia in casa, né avere il conto che si sta prosciugando. È un casino anche per il suo lavoro, è un macello lì. È un macello, lavori un decimo di quanto dovresti lavorare da asporto, boh, con i giorni rossi e dico, come si chiama? Ormai a colori siamo, capito? A colori siamo. Siamo gialli, arancioni, rossi, se ne comprendi nulla. Va bene, di nuovo i saluti Claudio, io vado a cucinare, poi si vedrà. Mi faccio un programmino per la serata in TV. Ok, ciao, buona serata. Ciao, Marco, ci aggiorniamo, tante cose belle. Sono qua, c'è la Luca Flipper, aspetta Flipper, e la vedevate, vi dici a su. Ciao Antonio José, buonasera. Ma voglio andare a venire a travagliare, cazzo, basta uscire rinchiuso in casa, ruente un galeotto. Ma infatti è gioco a Montonelli, ma speriamo i Buriani. E ricordo il chimico, cosa posso fare? Non posso fare nulla. F4 Yatti. Battala è la Dacia, non cos'era? E cosa hai preso? È fuori strada? Ah, la Dacia l'hai preso, già ho capito allora. Gappa, aspetta che abbasso, hai ragione, è troppo alto, ecco qua, aspetta che abbassiamo leggermente, ecco qui, ecco qua, dai, così va meglio Antonò. No, no, devo aver toccato io poco fa quando stavo pulendo la radio, capito? Che ho fatto gli spostamenti per quello. In campagna non visibile, andando uscì. Ui, non hai visto cosa è successo a Santa Maria Covinas? Oggi amici disperati, disperati, cazzo, disperati. Quella lì ti sto dicendo io, quella. Proprio quella lì, dice che ha perso un sacco di soldi, Anisaidu. Sicuramente sarà così, cosa vuoi dire, capo? Non lo so, vabbè, gappa. Gennaio 2020. Sì, tranquillo che mi hanno bucato tutto. Lo già ne fate intanto. La crisi che fa? Allora, l'altro è un casino sui combinenti. Adesso cade il governo, la beviamo il culo. E la ragione c'è delle macchie altrui, lo sai. Onda, grattendimi, non è per te. Ah, così è. E allora, qualcosa già ce l'hai da fare tu. E io che non faccio la pannuta. A Gemma ci mandiamo in moglie tu. Non so se è vivo ancora, capito tu? lì, fai allungare con Domenico. E in altre che do Denco, a te la metto, vai, dice Denco 46 canali. E grazie di vino, ma ci vedo in TV. Mamma mia, come sto? Come c'è? Dove stai andando? La cabina, ma ci arrivo subito. Mino, è tornare cotto. Tempi freddi erano tu, tempi freddi, non ci butta via niente. Beh, certo che sì, certo che sì, ogni cosa c'ha la sua fine. Cosa, certo? Un frasi, calo quadrato. Cosa? Ma io stavo mangiando un burro che c'è un frasi, calo quadrato. Ma che, io già, appena rientro da travagliarmi, è vino buono. Sì, io non stavo con falo della macchina, pariami Pellegrini, Maria di Caccio, Grue. E comunque stavo ascoltando, Gabina non lo so, zia Grazietta è morta, la sorella, però Gabina non lo so. Eh beh sì, adesso sì, se è viva sì, a quell'età. Zia Grazietta può venire a morta, lui è tra la fila, beh come sta zia Grazietta? Già, già ti vogliamo come mamma, e commenti, a chi muta? Già muta. A me mi vuole sempre un mescio in frigo, quando arrivi a Roma Libre a Bicca, e mi vuole sempre un mescio, e mi dice a me un mescio da già regato già. No, io le portavo la spesa a casa, capito? Le facevo la consegna a domicilio e lei mi regalava sempre il pesce. Sì, io lavoravo con il dottore. Ehi, e mi dice, io andami a darti un caffè già. Ehi, noi anche dentro lo stabilimento eravamo di buona forchetta già. Io quando lavoravo dentro lì che andavo a trovarlo quando era in turno Antonio e già per la via mi rugaccettendo. Guarda, mi hanno confermato che è viva ancora Gavina. Gavina, show. No, mi hanno mandato un messaggio, ho capito. Grazie, carissimo. Se non scrivevi show, sapevo che era lì. All'internet, gli hanno detto, non due, sì. Ma ancora viva, l'hai più vista già Gavina tu? No, io sono da morto, che ho